Radio Gruppo Crudo, per un minuto di musica jazz. Un clarinetto anonimo di strada finisce su pennetta MP3. Solo 8 kHz. Qui non c'è niente di perfetto, perché veniamo su da sotto. Fuori dalla scena si sta meglio, cago quel che voglio. Tutta merda pura, zero taglio, tutto orgoglio autoprodotto. Underground, minatori del rap, vena d'oro grezzo attaccata coi picconi. E anche i fatti sono interpretazioni, predazioni di suoni e prelazioni ai coglioni. Qui si fanno da noi le vibrazioni, costo zero e copy zero e nuove interazioni.